Keller che ci accompagna spesso in questi viaggi nel mondo della letteratura e delle letterature. Questa sera avremo come titolo appunto Un pomeriggio con il Conte e verrà fatto appunto un viaggio nella letteratura e nel cinema per indagare e conoscere meglio la figura appunto del Conte Dracula. Diciamo che è un titolo molto affascinante, intrigante, se così si può dire, che ci ha incuriosito e ci porta anche un po' oltre a quelle che sono, oltre a quelli che sono i nostri orizzonti, dove spesso ci confrontiamo con la storia contemporanea, con la storia locale. Ultimamente abbiamo deciso anche così di aprirci alle scienze, all'argomento matematico-fisico, ma non vogliamo perdere di vista appunto anche la letteratura, e questo grazie anche a Franca che continua per noi, insieme a Bruna Maria dal Lago Venere, che è qui con noi questa sera, continuano a essere delle ottime suggeritrici e partecipano anche in prima persona nella crescita di questa piccola biblioteca che non smetterò mai, non mi stanco mai di dire, è una sede provvisoria e forse appunto prima o poi finiremo nel polo bibliotecario, che in questi giorni è un po' nell'occhio del ciclone, ma che continua a rimanere per noi una straordinaria occasione di crescita, di sfida e di svolta. Ecco, dovevo dirlo, perché sto leggendo tante cose, tante prese di posizione, ma di fatto poi noi siamo ancora qua, ecco, con degli scaffali da spostare e degli spazi che sono ormai insufficienti. Per cui io trovo faticoso poi dire, no, perché no al polo? Insomma, serve questa occasione per tutti i cittadini, non è solo uno spazio. Grazie comunque, e grazie soprattutto a voi di essere venute qui alla Biblioteca Provinciale. Io sono veramente riconoscente a chi ha avuto questa splendida idea di organizzare una conversazione con il Conte Dracula. Ecco, io penso che mi divertirò questa sera, spero di non annoiarvi. Allora, no, io devo solo rapidissimamente presentare Adam Aiger, la sua carriera in brevissimo spazio, per non rubare spazio al Conte, ma la sua carriera tutta in salita, brillante direi, comincia come insegnante, poi direttrice scolastica, poi dopo vari concorsi, la sua giusta trafila, finisce a insegnare storia della letteratura come docente all'Università di Perugia, all'Università per Stranieri. Dopodiché viene trasferita a Trento, dove insegna sociologia della letteratura femminile e letterature comparate. No? Sociologia della letteratura e basta, e letterature comparate. È un'esperta però, adesso insegna, fa dei corsi a contratto, essendo in pensione, alla IULM, sempre su letterature comparate, alla IULM di Milano. È esperta però di letteratura femminile, è esperta del Verga, su cui ha editato alcune pubblicazioni, è esperta di Carlo Levi, di Primo Levi, ed è esperta della letteratura ebraica in Italia, soprattutto Bassani. Ma i convegni che ha fatto, a parte un grosso convegno internazionale su Levi, sono di altra natura. Due convegni su Levi, una bibliografia aggiornata. Allora, un primo convegno su Dracula, che si chiama, è del 94 a Trento, è un convegno internazionale e si chiama Il vampiro, Don Giovanni e altri seduttori, ed è un convegno internazionale che ha avuto grossa fama. Dopodiché nel 97, in occasione del centenario dell'uscita del libro di Bram Stoker, pubblica un altro, organizza a Trento, una bella fatica organizzare convegni di questo genere, ve lo assicuro, un convegno internazionale, Per favore mordimi sul collo, chiaramente ripreso da Polanski, Il mito di Dracula nella letteratura e nel cinema. Partecipa poi a numerosi convegni, seminari, eccetera, tra gli altri fatti all'Università di Siena, a Trieste, a Rovereto, a Trento, anche a Bolzano. Ecco, io ho finito di presentarla molto in fretta, escono gli atti, ma adesso per entrare nel vivo con la domanda più banale che si possa immaginare, ma io voglio sapere in brevissime parole perché siamo qui oggi a parlare di Dracula e di Bram Stoker. Ecco, allora, l'anno 2012 è stato l'anno del centenario della scomparsa di Bram Stoker. A Milano, la Triennale di Milano, con la collaborazione del Kunsthistorisches Museum di Vienna, ha organizzato una mostra che io ho visitato non proprio nel 2012, è iniziata il 2012 ma è proseguita fino al marzo del 2013. Negli ultimi giorni di marzo del 2013 sono riuscita a visitare questa mostra. Ecco, noi arriviamo un po' in ritardo, ma oggi è un'occasione di omaggiare Bram Stoker, un po' in ritardo, sì. Io non ho finito di dire una cosa importante, lei è stata intervistata proprio sull'argomento Bram Stoker e il suo Dracula anche dal canale televisivo di Rai Storia. Adesso, prima di entrare nel vivo del vampirismo, ci parli un attimo di Bram Stoker, che anche lui ha una vita abbastanza avventurosa, insomma, è anche lui un personaggio, e come spesso succede, l'autore è diventato meno famoso del personaggio, no? Ecco, allora, una telegrafica biografia di Bram Stoker. Abraham Stoker nasce il 1847 nei pressi di Dublino, e suo padre ha lo stesso nome Abraham Stoker e lavora come impiegato. E il ragazzo è malaticcio. Abraham nei primi anni è malaticcio e fino a 7 anni è spesso costretto a letto. E però nella maturità guarisce del tutto, tant'è vero che si iscrive al Trinity College di Dublino, si iscrive non in lettere, non in filosofia, ma si iscrive alla facoltà di scienze e concluderà i suoi studi laureandosi appunto in scienze. E dunque prosegue gli studi all'università e partecipa ai giochi sportivi universitari, ottenendo, nonostante la malattia che lo aveva colpito nell'infanzia, ottenendo delle medaglie, dei riconoscimenti nel sollevamento dei pesi e nella corsa. Ecco. E dunque si laurea, nel frattempo legge appassionatamente tante opere di narrativa e una volta laureato si iscrive a un master di matematica pura. Andiamo avanti. E matematica pura, e nel frattempo scrive dei pezzi di critica teatrale, perché lui è appassionato di teatro, e li pubblica in una rivista, il Mail, Evening Mail di Dublino. I suoi pezzi vengono pubblicati anonimi e non percepisce nessun compenso. Ecco, cosa c'è ancora da dire? Scrive anche, comincia a scrivere altre sue opere che però non è che siano molto famose. E pubblica, ma non le pubblica ancora, scrive e non pubblica. La sua famiglia versa in precarie condizioni economiche, perciò lui si mette a fare qualche lavoretto. Muore il padre e appunto nel 1876 muore il padre, e nello stesso anno conosce Henry Irving. Chi è Henry Irving? è un attore, ma non un attore da strapazzo, un attore è molto famoso, la regina Vittoria, su anche suggerimento di Bernard Shaw, gli conferirà il titolo di Cavaliere Sir, ed è il primo attore che ottiene questo importante riconoscimento. Ecco, dunque anche il master lui lo conclude in fisica. E Henry Irving affascina il nostro Bram Stoker. E cosa fa allora il nostro Bram Stoker? Decide di seguire Irving a Londra e di fare il suo segretario e impresario teatrale. Ecco, questa collaborazione durerà più di 20 anni, fino alla morte dell'attore. Morto l'attore, Bram Stoker scriverà una biografia in 2 volumi su questo personaggio. Ecco, forse è curioso sapere che nel 1872 il padre si trasferisce con la moglie e le figlie e all'estero. Vanno dapprima in Svizzera, poi in Francia, anche in Italia. Tant'è vero che a Cava dei Tirreni cosa succederà? Succederà che il padre morirà a Cava dei Tirreni in Italia. Ecco, noi adesso abbiamo il nostro Bram Stoker a Londra, trasferito a Londra, e con la sua compagnia andrà in tournée negli Stati Uniti d'America e conoscerà personalmente Mark Twain, andrà poi in tournée in Canada, dove conoscerà invece Walt Whitman. Ecco, e ancora una curiosità, all'età di 39 anni, dopo la laurea in scienze, dopo il master in matematica pura, il signor Bram Stoker, ecco, non lo chiamo più Abraham Stoker perché alla morte del padre lui scelse di non chiamarsi Abraham ma Bram. Allora Bram Stoker decide di laurearsi in giurisprudenza. Ecco, lui farà tutti gli esami, li supererà dopo 4 anni, verrà ammesso alla professione forense ma non eserciterà mai, non praticherà mai questa professione. Benissimo, ma adesso voi vi siete spazientite, veniamo a Dracula da morire. È una notte tempestosa. Questo voglio sapere. Voglio arrivare all'incubo, perché poi faccio la controdomanda. Allora, ecco, è una notte e il nostro Bram Stoker, che era un personaggio tranquillo, morigerato, senza vizi, va a letto dopo aver fatto una bella mangiata di frutti di mare che lui ha innaffiato con tanto vino. È una notte dove lui ha parecchi incubi e quando si sveglia manifesta l'intenzione di scrivere un romanzo sui vampiri, sul vampiro. Ecco, perché il vampiro non l'ha inventato lui, c'è tutta una tradizione in tutto il pianeta, dalla Cina fino ai Balcani, di vampiri. Allora, ok, adesso voglio il tuo parere, se è leggenda o verità, a che cosa si può dare più credito. Sappiamo che io faccio la parte storica, la parte mitologica, ma non solo. No. Sappiamo che il Dracula di Bram Stoker è uno degli ultimi romanzi gotici, no? Però un secolo prima di lui già Goethe aveva scritto La sposa di Corinto. Non solo, poco prima che uscisse il suo Dracula, era uscito su un magazine, su una rivista inglese, un racconto gotico intitolato The Vampire, il titolo esatto è The Vampire Lord Ruthwin, di un certo John William Polidori. Ora curiosa raccontare la storia di questo Polidori, che era il medico personale di Lord Byron. E che cosa successe? Lord Byron un giorno invitò il suo medico, Lord Shelley, Percy Shelley, e quella che sarebbe diventata sua moglie, cioè Mary Shelley, a fare una vacanza sulla villa che lui aveva al lago di Ginevra. Il tempo era molto brutto, come adesso, no? Invece di andare a fare passeggiate dovevano stare in casa, e invece di giocare a biliardo a carte si sono dati un lavoro un po' più intelligente da fare, cioè hanno detto: scriviamo ognuno un raccontino gotico. I due lord non hanno prodotto nulla. La moglie, quella che allora era la fidanzata, la moglie di Shelley, la Mary Shelley, scrisse Frankenstein, che divenne altrettanto famoso e che è a tutt'oggi un long seller. Polidori scrisse questo The Vampire Lord Ruthwin. Ora io mi domando, questa lettura di questo The Vampire uscito poco prima, questa lettura addirittura del romanzo gotico di Goethe, possono essere stati, assieme ai gamberetti o ai frutti di mare, ispiratori, oppure ci sono altre fonti di ispirazione? Allora rispondo. Di Braut von Corinto è la sposa di Corinto, che poi è stata magistralmente tradotta in italiano da Benedetto Croce. No, non credo che abbia sollecitato la fantasia del nostro autore, mentre invece lui conobbe sicuramente il vampiro di Polidori. Ecco. Allora adesso magari ti dico quali sono, diciamo, gli antecedenti e le persone, le letture che egli fece. Ecco, allora siamo nel 1890, decide di scrivere e devo dire che molto diligentemente lui si documenta. Ecco, per le vacanze lui soleva recarsi nello Yorkshire a Whitby e in un'uggiosa giornata, anche lì uggiosa giornata, cosa fa? Il nostro autore, Bram Stoker, si rifugia nella locale biblioteca, molto fornita, e legge un libro importante di un certo Wilkinson. Il testo non è stato tradotto in italiano, comunque è una relazione che questo signore, che era un diplomatico che risiedette per parecchio tempo in Ungheria e in Romania, e questo signore fa un resoconto sul paese che lui visita, ecco, e appunto nella sua relazione sui principati di Valacchia e Moldavia lui scrive questo, cito: Dracula nel linguaggio valacco significa diavolo. I valacchi avevano l'abitudine all'epoca, e ce l'hanno ancora oggi, di dare questo soprannome a tutte le persone che si distinguono per coraggio, diavolo coraggio, e azioni crudeli, mi sta bene, o abilità. Benissimo, allora lui legge Wilkinson. Ecco, e poi incontra anche dei personaggi importanti, e un certo Arminius Vamberi, che era un orientalista di lingua tedesca ma di nazionalità, di cittadinanza ungherese. Ecco, lui appunto. E poi anche legge anche i Baedeker, quelle guide turistiche che erano piene di interessanti notizie. Ecco, e decide di scrivere un libro. E in prima battuta lui lo intitola, adesso pronuncio col mio inglese impronunciabile, The Undead, cioè il non morto. E il suo personaggio si chiamava, nella sua fantasia, Vampire. Però cambia tutto, cambierà appunto lo cambierà il titolo, e cambierà anche il nome del personaggio, ovviamente. Ecco, Allora siamo al 1897, ho detto che l'incubo notturno era del 1890, il 1897 è precisamente il 24 maggio, il nostro autore ha già scritto il suo libro, dopo vedremo poi ancora chi si ispira, ha scritto il suo libro e alcuni giorni prima della pubblicazione egli lo presenta nel teatro, il Lyceum Theater di Irving, ma presenta una lettura di alcune parti del suo romanzo. Ecco, ancora una cosa sul libro: il libro non è che venga accolto con grande interesse e consenso dal pubblico, e quando invece finalmente Stoker va ancora una volta in America in tournée, cosa succede? Che in America viene pubblicata un'edizione americana di questo Dracula e oltre all'edizione di Dracula c'è anche una il Dracula viene pubblicato a puntate sul The Sun di New York. Ebbene, in America nel 1899 lui ha veramente un grande consenso di pubblico, però dopo morirà prima che il suo successo diventi mondiale. Ma tu mi avevi parlato anche però di un'ispirazione abbastanza precisa con Mary Elizabeth e con un'altra donna, cioè c'erano state due ispiratrici di questa, a parte i molluschi, a parte quello che era, e a parte i polidori, ma c'erano state anche due donne che lui si era ispirato, come ci dici che sono? Sì, allora oltre al polidori, alla Carmilla di Lefanu e a Varni il vampiro di autore sconosciuto, forse questo autore è il signor Prest, ecco, noi veniamo a conoscenza di due signore innamorate della Transilvania che avevano scritto due opere. Allora, una si chiama Emily Gerard, scritto Gerard. Questa signora aveva sposato un ufficiale dell'esercito austro-ungarico in Transilvania, in Romania. E questa signora trascorse due anni a Sibiu e a Brasov, che sono due località della Romania. Benissimo. Ecco, e al seguito del marito, e scrisse un libro che appunto capitò nelle mani del nostro Stoker. Il libro si titolava La terra oltre, la foresta quotidiana in Transilvania. Transilvania, foresta oltre, la foresta ecco perché Transilvania. Lui l'ha spostato dalla Valacchia alla Transilvania. Ecco, e vediamo un po', cito anche qui. Voi conoscerete il primo film su Dracula, che è un film muto, Nosferatu di Murnau. Di Murnau. Per problemi di diritti d'autore, il Murnau non poté chiamare Dracula il suo film, lo chiamò Nosferatu. E questo Nosferatu parla appunto questa Gerard. Lei dice così: il Nosferatu o vampiro, se uccide un umano, lo trasforma in vampiro. Ecco, allora, il signor Matei Kazaku, che è l'autore di questo libro, che è recentemente stato pubblicato negli Oscar Mondadori e che è un grande esperto non tanto di Dracula ma soprattutto di Vlad, l'imparatore della famiglia Vlad III. Infatti questo libro si intitola Dracula, la vera storia di Vlad III l'imparatore. Allora, dice appunto Kazaku in questo aggiornatissimo libro? Che la parola Nosferatu non si trova nei dizionari di lingua romena, perché è una parola che noi troviamo nel folklore, solo nel folklore, ecco, ed è il termine che è assimilabile a diavolo. Nosferatu sarebbe, feratu sarebbe fratello, Nosferatu sarebbe non fratello, falso fratello, cioè diavolo, persona malefica e cattiva. Ecco, allora lei legge appunto queste cose e lui legge, scusate, queste cose, e poi lui ha un grande debito nei confronti di un'altra signora giovanissima, una certa Nizet, scritto Marie Nizet, era belga, e non sappiamo con certezza se lei sia stata in Romania. Pare che non sia stata mai. Lei era innamorata della Romania, della letteratura e della storia romena, aveva delle amiche romene, e anche lei a un certo punto della sua vita ha scritto, come la Mary Shelley giovanissima, a 18 anni scrive un libro che si chiama Capitan Vampiro, sottotitolo Racconto Romeno. Ecco, ma precedentemente aveva scritto anche un altro testo, aveva raccolto delle poesie romene e poesie che esaltano la lotta dei romeni contro l'invasore turco, e appunto esaltano la guerra di indipendenza romena. Ecco, questi canti della Romania lei li aveva raccolti, ma Stoker probabilmente lesse. E qui Kazaku fa un'analisi molto approfondita, e secondo lui si tratterebbe addirittura di plagio, cioè addirittura del plagio. Poverina, il fatto che lei è sconosciuta, se lui è diventato famoso, succede. Ci sono due coppie di fidanzati, e come due coppie di fidanzati si trovano anche in Dracula, insidiate le fanciulle e da un signore che non è questa volta un romeno, vampiro romeno, ma è un russo, appunto, un ufficiale russo. Ecco, poi ci sono altre somiglianze molto marcate. Mi dispiace per lei. No, senti, torniamo un attimo al nome Dracula. Allora, già secondo gli antichi romani, no? In latino, Draculei voleva dire demoni, quindi in rumeno ancora di più, cioè l'attinenza con la lingua. Però noi sappiamo anche che Vlad III, l'imperatore, Vlad III Tapes, che vuol dire, tra l'altro, questa tecnica dell'impalare l'aveva imparata dai turchi, era figlio di questo Vlad II, re di Valacchia. Tra l'altro Bram Stoker, la Valacchia è molto più a sud della Transilvania, confina con l'Ungheria, ed è l'ultimo baluardo della cristianità contro l'impero ottomano. Quindi Vlad II riceve dal re Sigismondo d'Ungheria, proprio per aver prestato aiuto, per la sua fedeltà, perché aveva dato le sue truppe per combattere i turchi, siamo nella prima metà del 1400, riceve da Vlad II la più alta, riceve da re Sigismondo d'Ungheria la più alta onorificenza che il regno d'Ungheria conosca, che è quella del dragone d'oro. Allora, Draculei potrebbe anche voler dire figlio del dragone. Non lo so, ripeto quello che dice la storia, sì, ma sì, vuole dire piuttosto demone, è più giusto interpretarlo come demone, visto che di letteratura si parla e non di storia, e visto che colui che poi l'ha scritta ha travisato molte cose, nel senso che ha addirittura spostato di paese, eccetera. Allora, siamo più propensi a dire che voglia dire demone o che voglia dire figlio del dragone, cioè che sia un termine negativo o che sia un termine positivo? Negativo. cioè c'è la possibilità che Dracula significhi dragone, anche perché la radice romena drac sta a indicare anche il drago, ecco. Sì, però quasi tutti i critici sono propensi nel dargli questo significato di diavolo, di ecco. Di demoni. Senti, allora, mi dici perché secondo te questa storia è diventata così affascinante e da quando ha cominciato ad avere successo non ha mai smesso di averlo? È un libro che si legge continuamente, lo si legge a scuola, lo leggono i ragazzi, lo leggo, poi dopo parleremo dei vampiri del XX secolo, ma voglio dire, già anche solo quel genere di vampiro quanto ha ispirato e come mai è diventato un long seller che ha continuato ad avere fin dalle sue origini, non proprio origini, ma dai tempi della pubblicazione in America, questo continuo interesse che non scema, che rimane sì. Uguale. Perché? Questo libro ha avuto un grande impatto. Questo libro è innanzitutto un libro di scorrevole lettura, è piacevole. È piacevole per quale motivo? E per la scrittura si tratta di... non c'è un io narrante. Ci sono tanti protagonisti che esprimono il loro punto di vista. Ci sono parecchi punti di vista di donne e di uomini. Si tratta di un patchwork di diari, di varia, non è un diario solo, ma sono diari di vari personaggi, e articoli di giornale, e telegrammi, lettere. Ecco, perciò dal punto di vista della lettura è una lettura piacevole, rilassante. Sì, come, sì, come già avevano fatto, è un escamotage per dare maggiore senso di veridicità a un'opera di fantasia, no? Lo aveva fatto Lovecraft, lo aveva fatto Poe. Vabbè, poi era un solo personaggio, il Gordon Pym, lo ha fatto perfino Foscolo nel Jacopo Ortis, voglio dire. Però è un escamotage che ha la sua validità letteraria. Però a parte lo stile, poi sì, tu lo hai letto anche in chiave psicologica, sì, sociale. Sì. Cioè può essere letto in chiave sociologica, in chiave psicologica. Tra parentesi, è uscito recentemente una edizione nuova di Dracula in italiano con una prefazione splendida di Vittorino Andreoli. Vittorino Andreoli che dice questo, mamma mia, leggo questo romanzo e mi sembra di essere nel mio... chiave psichiatrica. È un romanzo psichiatrico, benissimo. Allora, ma può essere anche letto in chiave religiosa, sotto il profilo socioculturale, ecco. Sociale, sì. Socioculturale, ecco. E così, se volete ne parliamo anche di questo. Sì, ecco, il profilo socioculturale, io ho letto una critica che diceva appunto che Dracula azzanna l'Inghilterra, allora lì la metafora è chiara, no? L'indagine sociale, la borghesia, mi dicevi anche tu, che ha paura che i nobili, i potenti, gli inglesi li ancora una volta li vessino, li calpestino, li succhino il sangue, cioè proprio una metafora che calza a pennello, no? In chiave psicologica tu mi dicevi... Cioè innanzitutto è l'esplosione vulcanica della libido, della libidine, teniamo presente. Ecco, siamo in epoca vittoriana e qui abbiamo, adesso non è il sentimento amoroso, romantico che viene in evidenza, ma qui è proprio la passione, una persona, passione che esalta il desiderio bisessuale, quello omoerotico, insomma, e anche un amore al di fuori dell'alveo familiare. Ecco. Perciò è un libro che così sarebbe interessante leggerlo in termini psicologici, psicanalistiche, anche psicanalitiche. Poi ecco, il vampiro. Il vampiro è che cos'è? È un nemico, è il nemico di Dio, è Maria. È un essere che non accetta la morte e che torna sulla terra per insidiare i vivi e per appunto che cercano di dimenticarlo, ecco. Forse anche il desiderio di immortalità. Sì, beh, c'è, piace il libro anche perché secondo me il più che mito, io parlerei di archetipo, come c'è l'archetipo della grande madre, così c'è l'archetipo del vampiro. E in fondo sia noi tutti, uomini ma anche donne, abbiamo appunto questa pulsione, questo desiderio di essere immortali, di non finire i nostri giorni, e poi vogliamo essere come il vampiro e ci piacerebbe essere seduttivi, ci piacerebbe avere il potere, ci piacerebbe asservire gli altri, schiavizzarli gli altri, vampirizzarli. Non ce lo confessiamo, ma abbiamo questo. Ma può essere inteso invece in una maniera, non so, vedendolo come simbologia religiosa, adesso non vorrei essere un po' blasfema, ma insomma, allora, questa voglia di nutrirsi del sangue non può essere anche una simbologia in qualche modo religiosa? Sì, posso finire, so. Sì, posso finire, la storia del sangue è un discorso un po' complicato, ma adesso arrivo subito. Volevo appunto ancora parlare del profilo sociologico. Allora, io ho conosciuto recentemente a un convegno sulla paura il celebre David Punter, spero che si pronunci così, il quale ha fatto una bellissima conferenza sul terrore. Lui ha scritto un bellissimo libro, forse lo avete anche voi, sul terrore in letteratura. Ecco, ha fatto una bellissima conferenza, io non ho capito niente perché non c'era la traduzione simultanea, ma comunque chi l'ha sentito ne ha parlato molto bene. Allora lui appunto è uno studioso che ha appunto sottolineato questo fatto. La letteratura di Dracula, ma non soltanto di Dracula, tutta quella letteratura che parla di vampiri, è una letteratura che mette in scena la borghesia ottocentesca, ben pensante, che perciò si scandalizzava per certe proposte sessuali. Ecco, la borghesia ottocentesca che teme il pericolo dell'aristocrazia, ha paura che l'aristocrazia alzi la testa, questa aristocrazia parassitaria che viveva di rendita e ricompaia sulla scena per succhiare appunto i in questa soldi. Chiave direi sì. Che non ha mica tutti i torti, è giusto? Sì. È molto attuale. E poi c'è un'altra cosa, sotto il profilo culturale, il vampiro rappresenta il diverso, il reietto, il capro espiatorio, lo straniero, l'emarginato, ecco. E anche oggi è appunto un emblema di questo. Allora veniamo al sangue. Allora, il sangue è più pieno di una grande simbologia, è una grande simbologia. E noi abbiamo un grande antropologo che è stato Camporesi, e Camporesi che appunto ha scritto un libro sul sangue e l'ha chiamato Il sugo della vita. Il sugo della vita, ecco, allora, il sangue è l'ottimo dei sughi, scriveva nel 1564 un medico filosofo olandese tale Levino Legno. Il sangue è l'ottimo dei sughi perché è il tesoro della vita umana. Perciò quando si parla di sangue possiamo parlare in termini anche religiosi, in termini magici. Ecco, il sangue degli animali e il sangue degli umani. Il sangue ha delle valenze, delle ambivalenze. Può essere inteso come qualcosa di positivo, come qualcosa di negativo, di malefico. Ecco, è importante soprattutto il sangue che esce dal corpo, il sangue che esce dalle ferite, il sangue dell'animale sacrificato, il sangue mestruale. Il sangue poi se ne parla sempre, il patto di sangue. Pensate un po' alle società camorristiche, mafiose, eccetera, e con il patto di sangue, con questo mescolare il proprio col sangue altrui, mischiare il sangue. Che cosa significa? Significa entrare in parentela. Allora, se noi siamo amici, la nostra amicizia può anche sparire a un certo punto, guastarsi. Ma il patto di sangue che rende noi parenti è un patto che si estingue solo con la morte. Ecco. Infatti si estingue con la morte. Poi cosa c'è? Che il nutrirsi del sangue dei nemici è il pasto cannibalico. Ecco, perché nel pasto cannibalico c'è anche il sangue. Ma è una cosa incredibile perché anche qui c'è un aspetto negativo e un aspetto positivo. Allora, io uccido un nemico e assumo il suo sangue. Allora, questo sangue dà forza ed energia a me. È positivo. Ma è anche positivo, può essere anche positivo per il nemico, perché il nemico in un certo senso non muore, sopravvive, muore con me. Sopravvive con me. Ecco, questo è cioè, un'ambivalenza, questo libro, forse è quello che e ha poi, suscitato tanto fascino, sì, nel libro. E poi cosa c'è ancora da dire sul sangue? Ma se ne parla una cosa incredibile, ci sono tante superstizioni, come la superstizione che abbiamo visto dell'altro, superstizioni che appaiono in molta letteratura. Per esempio, Riccardo III di Shakespeare, c'è un episodio in cui un personaggio, tale James Stanfield, è morto. Arriva il figlio e con la mano tocca il cadavere del padre. Tocca il cadavere del padre e subito il cadavere incomincia a sanguinare. Questo è un segno che è appunto nella mitologia, è qualcosa di mitico, non esiste, diciamo, nella realtà, nella letteratura fantastica, perché la letteratura di vampiri, eccetera, è non solo dell'horror, ma è anche fantastica. È proprio fantasy. Sì, ecco. Allora, cosa succede? Succede che in questo episodio del Riccardo III, e quando il figlio tocca il cadavere del padre e dalla testa, credo, del padre esce del sangue, e questo sta a significare che egli è il colpevole, è stato lui ad ammazzare il padre. E la stessa cosa succede anche in altre storie, possiamo andare anche a ritroso nel tempo, molto più a ritroso nel tempo, alle Mille e una Notte, eccetera. Ecco. Certo. Poi c'è il fatto del ius sanguis, sanguinis, ius soli, il blu tut boden, insomma il sangue è pieno di... Il sangue è pieno di simbologia. Sì. E poi non bisogna mangiare il... blu. Anche il sangue blu degli aristocratici e anche, non so, la proibizione pede nella Bibbia di mangiare la il sangue degli animali che hanno ancora nella loro carne il sangue. Certo, ecco, c'è una specie di tabù del sangue. Senti, ci leggi un qualcosina? Mi interessa molto questa chiave psichiatrica di Vittorino Andreoli, che stimo molto. Dove l'ha trovata anche la lettura in chiave psichiatrica? Allora ho trovato, lo volevo lasciare come chicca per ultimo, ma comunque lo anticipo. Allora, scusate, perché guardate, l'ha scritto Andreoli, ma certe parole potrei averle scritte anch'io. Nel senso che anch'io sono un'entusiasta lettrice di Bram Stoker, e quando escono delle nuove edizioni con delle prefazioni nuove le acquisto tutte. Bene, ecco, adesso cito Andreoli. Per tutto il tempo che ho dedicato alla lettura di Dracula di Bram Stoker mi è parso di ritornare al San Giacomo della Tomba, il mio vecchio manicomio. Una lettura che mi ha anche per questo letteralmente portato dentro le pagine con una partecipazione che sanno imprimere i grandi scrittori. Apro una parentesi. Dovrebbero leggere i signori che dicono che questa è trivial literatura che le... Ecco, dunque rileggo una lettura che mi ha anche per questo letteralmente portato dentro le pagine con una partecipazione che sanno imprimere i grandi scrittori. Un tempo breve, poiché non riuscivo a interrompermi, resistendo persino al sonno, ma lunghissimo, poiché le emozioni e il tempo degli affetti non seguono l'orologio e quindi un secondo può farsi interminabile. E queste adesso sono parole che potrei aver scritto anch'io. Se un romanzo ha queste capacità, è un capolavoro e non ha bisogno di altre dimostrazioni. È il marchio che ciascun lettore vi imprime e riponendolo in uno scaffale gli sembra quasi di separarsi di una cosa in cui egli stesso è entrato e se ne può allontanare soltanto sapendo che il libro è lì ad aspettare e lo si può rileggere in ogni momento. Poi avrei un'altra cosa, ma adesso non la trovo. Entusiasta di lei, proprio il massimo dell'entusiasmo. Il massimo dell'entusiasmo, sì. Perché con... è una storia complicata, con tanti personaggi che affonda... sapete, è un mishung incredibile di folklore, storia, fantasia. Poi queste storie di questi popoli dell'est, ecco, non so, hanno un fascino particolare, una terra piena di leggende, per cui è ovvio che è una storia che... Guardate le storie, il fantasy da solo non regge, dopo un po' tramonta. La storia da sola diventa un saggio, deve essere scritta veramente molto ma molto bene, se è letteratura, perché altrimenti annoia. Questo è proprio queste diverse chiavi di lettura che l'hanno fatto così, così interessante, no? Perché non è solo un horror, capito? C'è molto di più, non è un... non è una storia di uno che azzanna le vergini e buonanotte, c'è tutto un retroterra, capito? Per cui uno si chiede, ma magari è vero, ma magari, insomma, magari è esistito davvero, io me lo sono chiesto, sai quanti viaggi, adesso poi ci hanno fatto anche un business sul fatto che organizzano viaggi in Transilvania, sì, ma comunque, sì, vabbè, adesso poi, hai trovato, io tiravo solo il lungo per farti trovare il pezzo, sai? No, io volevo dire un'altra cosa. Un'altra cosa, visto che avete parlato dei viaggi, eccetera. Dunque, cosa è successo? Torniamo a Ceaușescu. Torniamo esattamente al 1976. Allora, noi qui intanto celebriamo il centenario di Bram Stoker e Ceaușescu ha celebrato nel 1976 i 500 anni della morte di Vlad III. Ecco, 500 anni di Vlad III. E lui, Ceaușescu, mandò delle disposizioni ben precise, proibì a tutti coloro che partecipavano a questo festeggiamento di nominare Bram Stoker Dracula vampirismo. Ecco, perché, e questo io l'ho sperimentato, ho conosciuto, perché l'ho invitato a uno dei miei convegni, Marin Mencu. Marin Mencu è un romeno che ha insegnato all'Università di Costanza, che è venuto in Italia, amico di Umberto Eco, amico di intellettuali italiani, e Marin Mencu ha scritto anche un diario di, appunto, di, non di Vlad, non di Dracula. E quando venne si scagliò contro di noi e espresse tutta la sua disapprovazione per questo nostro questa nostra ammirazione per Bram Stoker. Per i romeni Vlad III, l'imperatore, è il salvatore della patria. È l'uomo che salvò la nazione dai turchi, ma non solo. Questo Vlad III, Cepes, imperatore, imparava non solo i turchi, ma imparava anche i cristiani, i cattolici cristiani, ma soprattutto imparava coloro che si comportavano disonestamente. Beh, oddio, volevo dire una cosa, non la dico. È meglio così, che sono quanti impalati. L'Italia sarebbe cosparsa. Ecco, poi c'è un'altra cosa, tanto curiosità. 2002, dal 1976 saltiamo il 2002. Dunque, Vlad III era nato a Sighișoara. Il ministero rumeno del turismo decise nel 2002 di organizzare a Sighișoara un Dracula Land. E beh, vabbè, insomma, allora ci furono i rumeni avevano anche accettato, ma ci furono proteste internazionali e che indussero il Ministero, appunto, del Turismo a desistere da questo progetto, ecco. Beh, insomma, anche noi abbiamo i centurioni romani che girano, lo sai, bisogna pur campare, insomma. Senti, no, invece, no, mi viene in mente adesso anche scandalizzarsi per qualcosa, voglio dire, io il povero Dan Brown che ha scritto il Codice da Vinci non pensava che avrebbe suscitato perfino le ire del Vaticano, aveva scritto un libro, si era un po' documentato, il resto ci aveva messo della sua fantasia, voglio dire, poi a uno può piacere o non piacere, interessare o non interessare l'argomento, ma al di là di una certa ricerca storica, poi il resto è fantasia, il romanzo è fantasia, perché deve, se no scrivere un saggio storico, insomma, non è utile scandalizzarsi, no? Mi fa un po' ridere. Comunque, senti, abbiamo visto chi sono gli ispiratori, mi dici, hai avuto molti epigoni, mi dici qualcosa del... I vampiri del XX secolo. Allora, ti dico la mia idea di bibliotecario. Ah, ecco, i vampiri del XX. Allora, confessione. Io ho letto e ho anche scritto sul vampiro anche di Polidori, che mi piace molto. Perciò a me piace il vampiro di Polidori, mi piace il Dracula. E non scopriamo le ho letto anche Anne Rice, intervista col vampiro, ecco, ma poi le altre signore che adesso in televisione e sul grande schermo imperversano, io deliberatamente non le ho lette, però qualcosa vi posso dire che non è farina del mio sacco, ma ve lo posso dire. Allora, innanzitutto due parole su... torno ancora indietro. Allora, dopo Dracula, il vampiro, ecco che arriva Anne Rice. Anche lei una irlandese di origine. Allora, dice Kazaku che il Bram Stoker ha fatto uscire dalla Transilvania e dal suo castello il Dracula, lo ha fatto scorazzare per l'Europa. Anne Rice invece non ha trattato il vampiro Dracula, ha trattato dei vampiri e li ha fatti entrare nel nostro cuore. Dunque, Anne Rice ha fatto intervista col vampiro e poi, come tante altre sue colleghe, non si è limitata a un'intervista, a un libro solo, ma ha fatto appunto, ha iniziato una saga. Qui parliamo adesso di saghe di vampiri. Allora, il vampiro di Anne Rice è leggermente, si discosta leggermente dal vampiro classico. Il vampiro classico non poteva stare al sole, moriva alla luce e moriva. E il vampiro classico veniva combattuto con l'aglio, con l'ostia consacrata, con la croce, e con il paletto per ammazzarlo, il paletto fondamentale di frassino, ma anche di altre piante. Ecco, qui invece incomincia la Anne Rice a presentarci un altro vampiro, un altro vampiro che piano piano perde certe sue caratteristiche per avvicinarsi quasi all'uomo. Si umanizza. Allora adesso ti dico una cosa che ti farà scandalizzare. Vediamo. Credo che il libro più letto degli ultimi anni in biblioteca siano stati i libri della Stephanie Meyer. Adesso è un po' tramontata la cosa, ma Twilight, tutta la trilogia della Stephanie Meyer, ecco, parteggiavano tutti per i vampiri, cioè questo vampiro non era più, era talmente umanizzato che diventava quasi un personaggio, diciamo, fragile, da proteggere, cioè lo si guardava quasi con tenerezza nonostante vampirizzasse, eccetera, però è cambiato tantissimo lo stereotipo del vampiro del XX secolo. Ma della Stephanie Meyer tu che idea hai? Pessima. Io non l'ho letta, prima di tutto non l'ho letta e non l'ho letta, però vi riporto alcune impressioni che ci provengono da Stephen King e dalla Anne Rice. Ecco, allora vediamo un po' le affermazioni di Stephen King, che che non trovo. Ecco, dice Stephen King, non sa assolutamente scrivere. Ma io non so, aspettate, allora voi direte, magari è una signora, dobbiamo noi donne difendersi, vediamo un po' cosa dicono le femministe. Allora, le femministe cosa dicono? È una misogina, sessista e retrograda. Peggio ancora. Cioè questa, no scusate, misogina, sessista e retrograda, non la scrittrice, scusate, ma l'eroina dei suoi romanzi. Bella, stessa ecco, roba. Ecco. Ecco, e tra l'altro poi cosa è successo? Che su Facebook Anne Rice e la Maya si sono... No, solo la Anne Rice ha bollato appunto la scrittrice Stephen Meyer. Stephen Meyer è felice, sì, di tutti i, sì, i proventi che le sono venuti alla mente, e dai diritti cinematografici se ne è fregata, e buonanotte. Però vedete una cosa? Il mito di Stephanie Meyer è una cometa, adesso non, in pochi lo, adesso tu, io non sono fuori dalle biblioteche, ma tu me lo dirai, non lo so, non credo che lo chiedano, in libreria non lo chiedono più. Si pensava che con la versione del secondo film si riprendesse un attimo, in realtà non si è ripresa la vendita, c'è stato un boom incredibile che è durato, diciamo, un anno, ma a farla lunga, non di più. Ecco, Bram Stoker lo chiedono, lo credo, l'Anne Rice la chiedono ancora adesso, Frankenstein di Mary Shelley, altra cosa, ma voglio dire, dottor Jack, li visterai, tutte queste figure un po' ambivalenti, eccetera. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che alla fine la letteratura rimane, e non chiamiamola narrativa e basta, per non offendere nessuno, passa. Poi noi abbiamo tempi brevissimi con tutto quello che esce, abbiamo dei tempi, non so, a un romanzo anche bello, ma se dura 3 mesi, 4 mesi, tanto. Allora, se questi sono rimasti per secoli, qualcosa vorrà pur dire, cioè ci sarà una certa differenza, no? Non credo che il prossimo anno qualcuno, cioè non fanno nemmeno più ristampe della Maya, di Bram Stoker continuano a fare ristampe, sì. Questo vuol dire, ci dici qualcosa dei principali film di Murnau, abbiamo parlato? Poi c'è due parole ancora sulle donne. Allora, io sono entrata tempo fa, siccome sapevo di dover parlare sui vampiri, eccetera, allora sono entrata in una pausa tra un treno e l'altro alla Feltrinelli stazione e ho guardato e ho visto che ci sono ancora tutta una serie di un'altra scrittrice di cui in America hanno fatto dei serial televisivi, e cioè Lisa Jane Smith, che ha scritto Il diario del vampiro. Ce n'erano tante. Io così li ho sfogliati un po', poi ho detto no, perché ho avuto l'impressione che l'avrei comperato ma non l'avrei letto, ecco. E poi c'è un'altra scrittrice che forse va ricordata, Laurel Hamilton, perché lei ha creato un personaggio interessante. Dunque, voi sapete che nel romanzo Dracula c'è anche un medico che fa caccia, il cacciatore di vampiri. Qui invece la Hamilton ha scritto anche lì tanti libri, è una saga, la saga di Anne Blake, saga di Anna Blake, che è una cacciatrice di vampiri. Non c'è un cacciatore, ma un cacciatore di vampiri. Ecco, e allora i film. Allora, abbiamo già citato Murnau con il suo Nosferatu in bianco e nero e muto. Ecco, poi nel 78, se non vado errata, c'è stata la ripresa, c'è stato Herzog, Werner Herzog, sì, nel 78, che fece il remake con Nosferatu, il principe della notte, però critici cinematografici non apprezzarono quest'opera, la giudicarono nettamente inferiore a quella di Murnau. Ecco. Poi andiamo a un regista statunitense che è Todd Browning, che appunto fa la trasposizione del libro, e Dracula si intitola il film. E l'interprete è Bela Lugosi. Allora, i due interpreti famosi, Bela Lugosi è ungherese, è un attore ungherese, deve la sua fama appunto ai film che ha interpretato come Dracula, e piaceva molto al pubblico perché la sua parlata, quando parlava si sentiva che non era americano, si sentiva che era straniero e che aveva quell'accento mitteleuropeo che appunto poteva avere il nostro Dracula. Detto così, conoscete lì l'aneddoto sulla morte di Bela Lugosi? No, addirittura no. Facciamo gli aneddoti sulla morte, no? Allora no. Questo non è l'aneddoto, pare che sia accaduto realmente. A un certo punto Bela Lugosi muore. Ecco, lui, famosa, lui prima di spegnersi, dicono che abbia detto questa frase: io sono il conte Dracula, io sono immortale. Lugosi fu sepolto per sua volontà con il mantello nero foderato di rosso, sì, che appunto indossava quando era in scena, costume di scena di Dracula, ecco. E Bela Lugosi, grande attore che interpretò Dracula. Poi c'è stato un altro grande attore che interpretò anche Dracula, un certo Christopher Lee. Ecco. Addirittura 16 film interpretò, e appunto, ecco. Dunque, anche qui l'elenco dei film è lunghissimo. Seguiamo un attimo. Ecco, io i film che ho visto sono stati appunto L'intervista col vampiro di Anne Rice, che non c'entra niente con Dracula. Ho visto il film di Francis Ford Coppola, ho visto Nosferatu, questa edizione qui, ecco, e poi ho visto la parodia Per favore non mordermi sul collo, ecco. Allora, secondo Kazaku, che ecco, lui dice questo, che della vastissima produzione cinematografica sui vampiri pochi sono gli adattamenti proprio di Stoker, e quelli veramente riusciti sono ancora di meno. Lui cita, da ricordare solo questi: Murnau, Browning, Todd Browning, Fisher, che appunto Fisher diresse, Terence Fisher, Christopher Lee, e Polanski, ma soprattutto lui dice il più bello è il Dracula di Francis Ford Coppola del 1993, e lui dice che lui la considera un capolavoro assoluto, una recitazione perfetta da parte di Gary Oldman, una intensità straordinaria, e poi anche i costumi, dice, sono strepitosi, la musica contribuisce, è un non plus ultra. Io sono stata appunto alla Triennale, e a questa mostra ho visto anche proprio i costumi appunto di scena, dei modelli molto interessanti, ecco. No, volevo solo dire che mi esce dalle, ancora adesso mi esce dalle orecchie questa canzone dei Velvet Underground su Bela Lugosi's Dead, perché mio figlio l'ha cantata per un anno circa, ogni momento, era proprio un, questo era quando andavano di moda un po' le, i Dark, no? Questo, questo gruppo musicale cantava di questa... di, questa, di questo attore bravissimo che comunque si era identificato in maniera incredibile, era diventato veramente un vampiro. Ho finito le domande, cara. Al pubblico, prego. Posso fare io una domanda? Chi ha letto il libro? No. Ma forse io la volevo fare, ma poi secondo me è impietosa questa domanda. È impietosa perché ho paura che qualcuno mi dica che non, nessuno l'abbia letto. Un po' come, non so, ci sono dei libri che tutti conosciamo ma nessuno ha mai letto. Tipo, ma io dico anche Pinocchio, per dire, mi metto solo Pinocchio, che il libro di cui la storia la conosciamo tutti, però non l'abbiamo letta. No. Però si è data la risposta, dobbiamo stare zitti noi. Lui l'ha letto 10 volte, il mio compagno. 20. Qui. No, su serio? Sì, quindi la, anche noi. C'era sul comodino. Oh. Però mi ho letto anche trovati? Quello di Elisabeth Kostova, Il discepolo, che non è male secondo me. Non l'ho letto. Anche Canini. Strano perché è passato inosservato, ma la biblioteca di Ortisarco l'ha ordinato, perché sono stato io che l'ho fatto prendere. Costa poco, costa 12 euro, 13 euro. Cioè, è un'edizione c'è. Economica, perché non l'hanno mai fatto rilegato. A me piacerebbe rilegarlo. Però bisogna parlare con gli editori, è una roba un po' strana. Beh, mi ha dato un consiglio. Guardi qualcosa, che sì. Non è male, Il discepolo di Elisabeth Kostova è qualcosa di... Ce l'abbiamo anche noi. Ce l'avete anche sì, voi. Perché me l'ha detto Ortisarco, forse. Lo posso prendere in prestito? Sì, me l'ha detto. Dopo mi piacerebbe che lei lo commentasse questo. Perché a me è piaciuto, se ha letto tante volte sì, Dracula, quello di Bram Stoker rimane Stoker, allora proprio... penso che potrò leggere anche quest'altro libro, grazie. C'è anche La pietra di luna di Collins, che forse non dovevamo tra quelli che sì. Possono essere stati ispiratori, ma non so. No, davvero, altre beh. Domande per piacere? A me sinceramente mi piace più la l'ironia su Dracula, non so se piace voi vedere la famiglia Adams. Ah sì. Poi si è visto il film La sposa cadavere. Oh, bellissimo La sposa cadavere. Oh, ragazzi. È in animazione, vero? Sì, d'animazione. Preparo per la cena. La sposa cadavere è splendido, è sì. È bello quel film. Esorcizziamo un po' la morte. È pazzesco, no? Ecco la chiave sì. Psicologica. Ah no, io volevo dire un'altra cosa. Posso dirla? Credo bene. Posso dire. Penso di sì. Posso dire. Dunque, la paura. Perché mi ha suggerito lei. La paura. Che cos'è la paura? È una emozione primaria, spiacevole, sgradevole. Però è funzionale. È giusto che noi l'abbiamo perché ci prepara ad affrontare i pericoli. E poi io credo, e poi ecco, c'è una cosa, che c'è il fascino in questi libri. Noi leggiamo i libri gialli dove ci sono cadaveri dalla prima all'ultima pagina, magari. Leggiamo tanta narrativa con colpi di scena, guerra, eccetera. La paura, ecco. La paura, beh, episodi di guerra non mi piacciono, episodi storici di guerra che raccontano atrocità commesse realmente non mi piacciono. Però la paura dei romanzi gialli, la paura di Dracula, un friccico di paura è bellissimo. È funzionale anche questo e ci piace. E allora c'ho una citazione, posso leggerla velocemente? Sì. C'ho una citazione che mi piace e non è mia. Spero di... eccola qua. Sì, ah, niente, prima della citazione volevo dire questo. è che i Grimm, anche le fiabe di Grimm sono tremende, sono, e ce n'è una che il professor Cusatelli, su cui il professor Cusatelli ha scritto tutto un articolo. Si intitola questa fiaba numero 4 in tedesco, Märchen von einem der Auszug das Fürchten zu lernen. Allora, è stata tradotta in italiano, ma Cusatelli dice che è stata tradotta male. Allora, Märchen è stato tradotto racconto e lui non è d'accordo, perché non è un racconto, è una fiaba. E allora, tradotto racconto, adesso non ricordo esattamente proprio tutto, pensa poco, è stato tradotto così, racconto senz'altro, di uno, Märchen von einem, di uno, der Auszug che partì per imparare la paura. E lui dice no, Auszie non vuol dire partire, ma andar fuori per partire. Insomma, è una storiella in cui il personaggio, come al solito, se ne va, è un sempliciotto, se ne va, esce, vuol trovare una sposa, per sposarla deve superare tanti pericoli, eccetera, ma la paura lo tempra, lo rende forte. Dunque la paura è qualcosa, non la fobia, non il panico, non il terrore, ma un po' di paura che c'è dietro fa la adrenalina. Ecco. E di allora, chi ha paura la letteratura che instilla paura esercita un'attrattiva, non solo perché esercita una funzione catartica, ma anche per, e adesso cito, questo, la citazione è di Aldo Carotenuto, che sapete che anche lui era uno psicoanalista, Aldo Carotenuto. Lui dice questo: la seduttività del testo che incatena il lettore assorbito nella lettura, la promessa di uno svelamento di ciò che la paura cela e rivela al tempo stesso. Ecco, anch'io credo nella seduttività di un testo che ci incatena. E poi volevo dire questo, proprio per finire, non solo l'adulto, anche il bambino si immerge con piacere nella lettura di un libro capace di procurargli un gradevole brivido, non deve essere troppo violento il libro, perché, e questo è, cito Edmund Burke, che è invece uno studioso d'Oltralpe, perché quando il pericolo o il dolore incalzano troppo da vicino, non sono in grado di offrire alcun diletto e sono soltanto terribili. È vero, quando il pericolo, cioè se io sento qualche, vedo qualche film che mi propone storie di guerre, Vietnam, olocausti, eccetera, non mi piacciono. Ma il pericolo e il dolore considerati a una certa distanza e con alcune modificazioni possono essere e sono dilettevoli, come ogni giorno riscontriamo. Grazie a voi per averci seguito.